Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Daniele Vicari, regista del film Il giorno e la notte, su Rai Play, da giovedì 17 giugno 2021. Daniele, ben trovato. Grazie Federico. Che storia racconti? Quando è scattato il lockdown l'anno scorso, abbiamo tutti sentito addosso a noi il peso di rimanere chiusi in casa, no? Un po' divisi tra la necessità di farlo, dal punto di vista, come posso dire, civico, per evitare il contagio, un po' perché in effetti c'era una specie di criminalizzazione di tutto ciò che si muoveva fuori dalle case, quindi alla fine la gran parte degli italiani sono rimasti chiusi in casa. Ma quello che non avevamo calcolato in questo percorso è il fatto che la libertà non è un concetto astratto, è un concetto pratico, materiale. Il fatto di non poter uscire di casa ci ha posto dei problemi, anche sul piano sentimentale. Allora, con questi amici attori con cui abbiamo realizzato il film, ci siamo detti: beh, partiamo da qui, perché qui sono in gioco proprio le basi della nostra convivenza, a partire dai nostri sentimenti. Per cui siamo partiti da questa domanda: che fine fanno i sentimenti se siamo costretti a vivere a casa anziché siamo liberi di scegliere se farlo o se non farlo? Come hai deciso di mettere al centro questa questione del congelamento, a partire da quello emotivo e sentimentale, e metterlo in scena? Siamo partiti da una considerazione che, se vogliamo definire così latamente politica, lo possiamo fare. Cioè, a me non è piaciuto fin da subito il concetto di distanziamento sociale. Ok, il distanziamento sanitario è necessario, le parole hanno un senso, noi rimaniamo distaccati per motivi sanitari, ma improvvisamente il concetto di distanziamento sanitario è diventato luogo comune ed è stato accettato anche psicologicamente, oltre che culturalmente, da tutti noi. E questo, secondo me, è un problema. A quel punto ci siamo detti: che cosa ci impedisce di fare comunque le attività che abbiamo sempre fatto, per esempio il cinema? Probabilmente è solo la sudditanza, l'idea appunto che io devo accettare degli ordini. Quindi in quel momento lì, avendo coscienza che abbiamo a disposizione strumentazioni che mai l'umanità ha mai avuto a disposizione nel quotidiano, strumenti largamente sottoutilizzati, un iPhone 11 è una macchina pazzesca che noi usiamo per fare due foto e tre telefonate, no? E invece può diventare, per esempio, una macchina da presa, oltre che un calcolatore messo in serie o in parallelo diventa un supercalcolatore. Cioè, noi possiamo fare quello che ci pare con queste macchine. A quel punto le abbiamo usate per fare cinema, rispettando, perché ci sembrava giusto dal punto di vista sanitario, le regole di distanziamento sanitario, ma non rispettando il concetto di distanziamento sociale. Quindi abbiamo costruito un set virtuale dove ci siamo incontrati e dentro questo set virtuale abbiamo condiviso una drammaturgia, una lettura di quello che stavamo vivendo e quindi una, si può dire, una visione del mondo. La storia che raccontiamo emerge, deriva da questo confronto. L'abbiamo scritta, sempre in condivisione, l'abbiamo provata, abbiamo fatto le prove e a quel punto, in circa 2 mesi di lavoro, abbiamo anche fatto le riprese. Stavo pensando al concetto di congelamento di tutta la sfera emotiva e sentimentale. Gli effetti a medio e lungo termine ancora si devono vedere di quello che è stato questo blocco. Per esempio, mi ha sconvolto giorni fa la notizia riportatami da un amico: a scuola dove va la figlia, una scuola media, dall'inizio dell'anno già il secondo suicidio. Diciamo che noi fino a qualche mese fa non ci siamo accorti comunque del disagio sociale profondissimo che si vive nella nostra società, perché lo spettacolo, messo tra virgolette, ci distrae, la società dello spettacolo ci distrae, porta la nostra attenzione altrove, quindi i morti sul lavoro come i suicidi oppure le persone che si perdono, che escono di casa e non tornano più, non fanno notizia se non finiscono appunto in uno show. Ma con la pandemia ci siamo illusi che tutto questo fosse finito, perché le persone le puoi avere sotto controllo, a vista. Invece questa prigionia di un anno ha esasperato la condizione psicologica di tutti noi, soprattutto dei giovani, e le statistiche fanno paura. Per cui se non siamo in grado di farci delle domande serie su tutto questo e dare delle risposte velocemente, questo lo dico anche come insegnante, perché io dirigo una scuola di cinema pubblica e gratuita, quindi ne parlo senza imbarazzo. Ecco, noi ce lo dobbiamo porre questo problema, cioè i nostri giovani come vanno a collocarsi in una società sostanzialmente bloccata e che contraccolpo riceveranno o stanno ricevendo da questa convivenza forzata e distanziamento forzato. Sono tutti costi collaterali della pandemia che dobbiamo molto ben valutare. Oh, uscirà su Rai Play e rispetto alla sala? Uscirà su Rai Play il 17, noi cadiamo nella cosiddetta finestra delle deroghe, per fortuna, perché il nostro è uno dei film rimasti bloccati appunto per le chiusure delle sale, però può avere anche una circuitazione nelle sale. Infatti il 24 giugno a Talenti, nella manifestazione gestita dall'ANEC, oltre a presentare il mio libro alle 19, alle 21 proiettiamo anche questo film e ne possiamo parlare. Penso che sia importante proprio incontrare fisicamente le persone, quindi io farò di tutto perché quantomeno nel circuito culturale si abbia una sua vita. Proprio al riguardo c'è uno spazio internet dove saperne di più di eventuali presentazioni in presenza? Noi abbiamo creato una pagina Facebook di questa società di naufragi che si chiama Contichi, con la quale abbiamo realizzato il film. Abbiamo creato la Contichi proprio durante la pandemia, e sulla pagina Facebook e sul sito di Contichi ci saranno tutte le informazioni per chi vuole vedere il film dal vivo, diciamo, dal vero. Il giorno e la notte su Rai Play da giovedì 17 giugno 2021. Salute e un ringraziamento al regista Daniele Vicari. Un in bocca al lupo e a presto. A presto, grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Con Elia Mudavid, vista del documentario Cufid al cinema da giovedì 17 giugno 2021. Ben trovato. Ciao, ciao a tutti, ciao ai vostri radiospettatori, sono contento di essere con voi. Che storia hai raccontato? Cufid è un po' un termine che non vuol dire nulla perché me lo sono inventato io. È un po' una storpiatura magrebina di Covid, quindi l'assonanza è quella, insomma richiama il virus appunto. Innanzitutto è un film autobiografico, è un film che ho girato durante il primo lockdown, quindi quello del marzo 2020, ed è uno dei più grandi imprevisti che mi siano capitati nella vita. Sono quelle cose che non hai preventivato ma che sono poi successe. È figlio di un intento iniziale, e stavo girando un altro film completamente diverso, circa un anno prima, e appunto con l'avvento della pandemia mi sono ritrovato appunto un po' spiazzato, ma non avevo assolutamente voglia né di fermarmi né di bloccare quell'intento iniziale. Quindi l'esercizio un po' registico di Cufid è stato quello appunto di riciclare, tra virgolette, del materiale che avevo girato precedentemente e di girarne del nuovo dentro le mura di casa mia. E ne è venuto fuori una specie di diario autobiografico dove tantissimi appunti, tantissime mie riflessioni, paradossalmente hanno trovato una logica durante appunto quel contesto del primo lockdown. Quindi ci tengo sempre a precisare che non è un film sulla pandemia, ma è un film girato durante la pandemia. Quindi l'averlo contestualizzato in quest'epoca ha fatto sì che ovviamente c'erano dei palesi riferimenti appunto alla pandemia, ma in realtà è un film che parla di identità sostanzialmente. Si sta parlando un uomo del nord con una forte cadenza bresciana, ma in realtà io sono marocchino di origini, i miei genitori emigrarono qui in Italia, primi pionieri, quindi 40 anni fa, arrivarono in questa pianura padana che all'epoca era uno dei posti più fertili, più prolifici del post boom economico, quindi insomma trovarono un'Italia diametralmente opposta a quella odierna, sia per questioni politiche, sociali che soprattutto economiche. Mio padre diventò subito un imprenditore anch'esso e quindi si unì all'antropologia lombarda, bresciana in questo caso. E quindi il film va a ripercorrere un po' delle tappe che ho vissuto, ma sostanzialmente ho utilizzato il virus a mio favore per fare delle riflessioni che mi sono partite quando mi sono ritrovato investito da quell'oceano di retorica che aveva come slogan appunto l'andrà tutto bene, ma soprattutto il torneremo più forti di prima. Ecco, questo torneremo più forti di prima, invece di darmi serenità, in realtà mi faceva, non dico terrore, ma mi faceva appunto analizzare che cosa vuol dire essere forti prima di tutto e che cosa eravamo prima. Quindi un oceano appunto di valori bellissimi e nobili, quindi di fratellanza, di tricolori, di canti, di amore e via dicendo, che conoscendo un po' i miei polli sapevo che si sarebbe andato a esaurire in maniera ottimistica in pochi mesi. In realtà già dopo 4, 5, 6 settimane tutta quella fratellanza che ahimè avevo auspicato anch'io è andata un po' a farsi benedire. E quindi nel film ci sono degli snodi che non rivelerò adesso, dove appunto spingo alla riflessione di quello che siamo noi proprio culturalmente in quest'Italia, dove appunto 40 anni fa i miei genitori avevano lo status di immigrato, dei miei genitori era appunto curiosità, e in soli 30-35 anni è diventato problema da risolvere. La questione dell'identità e della migrazione è anche solo uno dei capitoli. Il film poi parla anche di urbanistica, quindi della responsabilità che si ha quando si disegna una città, della responsabilità che si ha quando si pianifica appunto un massiccio utilizzo del cemento armato. Vivo in Lombardia, è la regione dove il cemento armato è religione praticamente, e sono cresciuto in un contesto piuttosto rurale, nelle campagne, e in soli appunto 30 anni tutto quello che a me appariva come capitalismo appunto che si portava del benessere, e tutti noi eravamo contenti e felici, me compreso, ero innamorato anch'io di quell'avvento prolifico di profitto, di benessere. Io sono figlio degli anni 80, sono dell'83, ho vissuto un'infanzia, un'adolescenza strepitosa, e a soli 30 anni sono qui che guardo appunto non solo le persone ma anche il territorio, che è un territorio purtroppo stuprato anche da quel punto di vista. Sto raccontando tante cose e il film è appunto queste tante cose, insomma, condensate appunto in un diario che ho girato a casa mia e con delle scene invece precedentemente girate, ma che sono tornate congeniali perché raccontano scenari desertici praticamente, quindi non deserto del Sahara, ma desertici nel senso dell'abbandono, ecco. Mentre mi parlavi guardavo l'immagine che hai scelto di impatto, il poster del film con una casa che si stacca dal suolo. Sì, è stato molto bravo il grafico, anzi sono due in realtà, Giulia Rosa e Giorgio Poloni, sono stati molto bravi a captare un po' quello che gli raccontavo come suggestioni, ed effettivamente è quello fondamentalmente. C'è un mondo che per me è casa, che non è solo casa mia, ma è anche proprio appunto il terreno dove sono cresciuto e dove voglio continuare a crescere, che purtroppo si sta sgretolando, ma non così lentamente purtroppo ultimamente, e quindi quella sì è una suggestione. E Kufid fondamentalmente è un'entità con la quale io parlo, c'è questo dialogo molto metafisico che ho con questa entità che non ha sesso e non è né un amico né un nemico, mi dice le cose come stanno e lui mi aiuta appunto a ragionare su queste delicate tematiche, e sostanzialmente mi sta anche dicendo guarda che qua si sta sgretolando parecchia roba, insomma parecchia roba, e quindi non tutto quello che tu hai amato e considerato come appunto una soluzione purtroppo era solo una mera illusione. Sì, è d'impatto e mi piace molto anche perché comunque condensa quello che avevo in testa io in realtà dal punto di vista grafico. Che tipo di distribuzione avrà il tuo lavoro? Kufid uscirà al cinema il 17 giugno grazie alla distribuzione di Cine Club Internazionale Distribuzione, e la primissima tappa sarà a Roma al Cinema dei Piccoli dentro Villa Borghese alle ore 21, quindi aspetto gli amici romani per guardarsi il film e anche farsi una chiacchierata a fine proiezione. Poi via via il 18 sarò a Brescia, il 19 a Milano, il 20 a Padova, e comincerà appunto un giro per tutta l'Italia praticamente, e spero appunto di trovare sempre tanto pubblico e soprattutto di tornare in sala, perché siamo stati fin troppo lontani appunto dai cinema. Ci dai tutti i riferimenti per i dettagli su internet? I trailer sono su internet oppure anche sul sito di Cine Club Internazionale Distribuzione. Avete tutte le informazioni sia per il pubblico che per gli stessi esercenti che possono richiedere il film appunto per le proprie sale. Il film Cufid al cinema da giovedì 17 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Elia Mudamid. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille per questa intervista, vi aspetto al cinema. Con Antonello Centomani di Movie Day per presentare il documentario Dietro i fronti, resistenza e resilienza in Palestina di Alexandra Dolz nei cinema del circuito da domenica 13 giugno 2021. Antonello, ben trovato. Ben ritrovato a te Federico, ti ringrazio. Salve a tutti. Che racconto è questo? Dietro i fronti è un film appunto che parla dell'occupazione palestinese, però non tanto dal punto di vista dei confini, ma quanto dal punto di vista dell'occupazione psicologica, quindi se vuoi ancora più importante, diciamo, di come segna poi una collettività dal punto di vista sociale e psicologico. Quindi un racconto fatto appunto attraverso la protagonista, che è Sama Jabra, una dottoressa e attivista palestinese, psichiatra, che si occupa proprio di questo tema, e il film appunto è un viaggio attraverso questa occupazione psicologica, tra l'altro è anche un progetto più ampio, cioè un libro omonimo. Quali sono i pregi di questo lavoro secondo te? Sicuramente il pregio di affrontare il tema da un punto di vista appunto non propriamente politico, ma di quello che subisce la collettività a livello individuale e proprio collettivo. È un documentario quindi molto importante che parla di questa situazione appunto annosa dal punto di vista proprio delle persone, di quello che subiscono, e siamo davvero felici di accoglierlo perché era appunto un tour, un film indipendente e straniero, cosa che chiaramente è ancora un po' più difficile da portare in Italia, che infatti sono un po' più stranieri su dei presenti, ed era prevista l'uscita prima della pandemia con un bellissimo tour che coinvolgeva tantissime associazioni contro Palestina, tantissimi soggetti, università e quant'altro. E le protagoniste sono la regista Alexandra Dost e Sama Jabra, la dottoressa psichiatra, che però poi è stato interrotto appunto a causa della pandemia. Adesso è stato recuperato il tour con la riapertura e con la appunto voglia di tutto, poi anche in questo momento che alcuni dei tanti che vede la Palestina su tutte le pagine, e quindi Alexandra e Sama sono riuscite a trovare uno spazio per venire in Italia apposta per questa proiezione, e anche per l'Università di Torino, che appunto sarà la promotrice insieme al Festival Creative Africa, che promuovono questa proiezione, e anche l'apertura di un master universitario appunto all'Università di Torino. Quindi siamo davvero contenti e speriamo appunto che il film possa circuitare attraverso le richieste. Come sapete, di Videi è una piattaforma di proiezioni on demand che permette a chiunque di creare, di chiedere proiezioni, di portare un film importante come questo, di comunità, di interesse appunto per associazioni e comunità varie nelle città che lo vogliono. Quindi speriamo che il tour prosegua, ma sicuramente ci sono già tante richieste che sono arrivate, quindi mano a mano vedremo anche altre proiezioni create al basso del film. Ecco, considerato che sul progetto ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, per chi non conoscesse la realtà Movie Day, spieghiamo in sintesi di cosa si tratta. Movie Day è una prima piattaforma, attualmente ancora unica, che digitalizza la distribuzione dei film nelle sale, permettendo quindi a chiunque di organizzare le proiezioni e contestualmente ai registi, in questo caso anche stranieri, di autodistribuirsi nelle sale tramite il coinvolgimento delle comunità, associazioni o singoli individui che possono organizzare le proiezioni sia nei cinema collegati e anche quelli non collegati che però si possono collegare, sia anche in luoghi personali come fosse proprio un Eventbrite, e quindi scegliendo il film, il giorno, l'ora, e poi promuovendo la proiezione attraverso appunto canali web, social, promuovendo le prenotazioni, le prevendite. Della regista cosa sappiamo? La regista è appunto una documentarista, antropologa francese, Parigi, quindi ha vari altri progetti alle spalle, e questo è sicuramente uno dei suoi più importanti. Il film è nato appunto con la collaborazione stretta, poi anche con amicizia con la professoressa Anna Jabr, dice che appunto saranno presenti domenica 13 luglio, lo ricordiamo, a Torino per chi fosse lì, a pochi posti stanno anche andando esauriti. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? Trovate tutte le informazioni su movieday.it, basta cliccare sulla locandina del film di Tre Fronti, trovate le proiezioni, la prima proiezione di Torino, trovate quelle ancora in Cannes-Sun, quelle sospese dalla pandemia che sono su Milano, Roma, e potete certamente creare voi una proiezione portando una vostra città, basta cliccare sul pulsante che è un evento e scegliere se farlo al mio cinema o in un luogo personale che può essere una scuola, una sala della vostra associazione, una biblioteca, ovunque abbiate una disponibilità di uno spazio. Noi consigliamo a volte anche in questo bel periodo di mettersi d'accordo con qualche magari bella cascina o luogo all'aperto per organizzare un evento di comunità e di riflessione importante su questo tema. Il documentario Dietro i fronti, Resistenza e resilienza in Palestina, di Alexandra Dolz, nei cinema del circuito Movie Day, da domenica 13 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Antonello Centomani. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. In bocca al lupo, grazie a te Federico e a tutti quanti all'ascolto. A presto. Con Emanuela Piovano di Kitchen Film per presentare il film Io, Lui, Lei e l'Asino di Caroline Vignal al cinema da giovedì 10 giugno 2021. Bentrovata. Buongiorno a voi, bentrovati, grazie. Che racconta questo film? Di un viaggio con un asino in un momento di crisi molto simile a quella che stiamo vivendo, di questa giovane donna che viene lasciata dall'amante e che decide di mettersi sulle sue tracce, che paradossalmente sono quelle appunto del percorso Stevenson sulle Cevennes. E il film è ispirato infatti al libro di Stevenson, Il viaggio con l'asino, che lui scrisse proprio perché era in crisi con la fidanzata, una donna molto particolare che era questa Fanny Osborne, più grande di lui di 10 anni, che per sposare avrebbe dovuto divorziare, quindi dovette tornare in America. Stevenson era perso, non sapeva che cosa sarebbe successo, è partito con questo asino. Allora Antoinette dalle Cévennes, che noi abbiamo tradotto Io, Lui, Lei e l'Asino, rovescia e ripercorre in chiave femminile, femminista, insomma, questo viaggio di una donna libera, spacciata, trasgressiva, che si mette sulle tracce appunto dell'amante e della propria famiglia, peraltro. Quali sono gli elementi che ti hanno catturato? Intanto, vabbè, era un film della selezione ufficiale di Cannes l'anno scorso, sono rarissime le commedie che vengono ammesse alla selezione ufficiale di Cannes, che è sempre una selezione estremamente rigida ed estremamente preziosa, che non fa mai sconti, che non fa mai compromessi, e quindi ero molto colpita anche dal manifesto di questo asino tirato da questa ragazza, qua fammi vedere cosa hanno scelto a Cannes. E invece ho avuto questa sorpresa di una bellissima commedia, ma molto anche poetica, molto evocativa, girata in Panavision, con questi posti montani, questa solitudine di questa ragazza disperata che appunto, come hanno osservato anche i Cahiers du Cinéma e anche l'altro giorno Mereghetti sul Corriere della Sera, è un po' anche Don Chisciotte, no? Perché insomma, viaggia per una sorta di utopia sua e fa amicizia con quest'asino, quindi l'asino che è recalcitrante, che non cammina e con cui lei intraprende un vero e proprio duello, alla fine diventa il suo grande amore, e quindi è un film che ci riporta moltissimo anche alla condizione che stavamo vivendo durante l'ultimo Festival di Cannes, che era la prima volta in vita nostra che vivevamo questa situazione veramente paradossale, e quindi questi squarci di natura incontaminata ma allo stesso tempo misteriosa, che non si sa come affrontare l'animale che è in noi, guarda, veramente è stata una rivelazione per me, e infatti è stata una rivelazione anche per lo staff dei Rendezvous del cinema francese, che l'ha scelto per inaugurare la rassegna di quest'anno, cioè tutti i parapedonali, i manifesti, tutte le immagini della mascotte del festival, e questa Lorca Lamy, che è questa attrice da noi conosciuta per la miniserie Chiama il mio agente, no? Di Poussin, che è molto buffa, ha vinto tra l'altro César come miglior attrice di quest'anno, perché è veramente un'interpretazione estremamente variegata, buffa ma anche drammatica, insomma molto molto bello. Di questa regista Caroline Vignal cosa sappiamo? Ha fatto un film 20 anni fa, Les autres filles, che era stato presentato alla SEMEN con la Critique di Cannes, poi ha scritto alcune sceneggiature, è diplomata alla FEMIS, ha una mano molto felice secondo me, è molto simpatica. Andremo insieme a Napoli, anche ospite dell'Istituto Italiano di Cultura, con l'ANAC, che è l'Associazione Nazionale di Autori Cinematografici, di cui io ahimè sono anche stata eletta vicepresidente recentemente, le conferiamo la tessera onoraria, quindi facciamo questa piccola cerimonia. Dopo Ghedidian e Adjani Vinicius avremo appunto l'onore di incoronare membro onoraria dell'ANAC la Caroline Vignal. Insomma, è una persona che per scrivere questa sceneggiatura ha fatto tutto il cammino lei stessa, da sola, con suo stadio, quindi tutti i personaggi secondari sono tutti personaggi che non sono stati presi dai cliché delle commedie, ma sono veramente personaggi che lei ha incontrato lungo questo cammino, insomma una specie di cammino di Santiago che si vede sulle Cevenne. In quali paesi è uscito e che risposte ha avuto? È uscito in Francia, dove ha avuto un grande successo, e adesso in Italia. Che uscita sarà qui da noi? Sarà un'uscita Covid, cioè io già, allora ho detto ieri sera a Nanni Moretti, ho detto guarda, io ritengo di essere sempre vissuta in Covid dal punto di vista della distribuzione cinematografica. Lui si è messo a ridere e ha detto hai ragione, perché cioè, le distribuzioni piccole come la nostra è estemporanea, perché io appunto comunque per me la distribuzione è diciamo un corollario della mia attività di regista, di intellettuale, sono tutte le volte in cui mi innamoro di un film, chiamo prima Occhi Pinti, chiamavo la Trax, De Paoli, dicevo ma perché non lo prendete voi, perché quando nessuno lo prendeva, però sapevo che era un film di grande valore, mi permettevo di prenderlo io. Però ecco, sono 30 anni che io faccio il Covid, nel senso che comunque non so com'è il circuito, non so quando uscire, è molto complicato il circuito per dipendente, no? E quindi questa volta per certi versi mi sento perfino allenata, perché tutte le volte mi illudevo che poi invece non funzionava mai, questa volta almeno parto già che non funziona, che le sale non ci sono, che non si sa quali sono, però tanto usciamo all'Anzio di Milano, usciamo al Massimo di Torino, usciamo all'Imer di Bologna, addirittura stiamo in trattativa per il Sacher, perché il film è piaciuto molto a Nanni, però insomma tutto così all'impronta, no? All'ultimo minuto, il miglior offerente insomma, ecco. E abbiamo all'Uopo anche predisposto una piccola piattaforma che si chiama CineKit, dove si può vedere anche film in streaming allo stesso prezzo del biglietto in sala, quindi non c'è l'idea di fare concorrenza nel modo più assoluto, però c'è l'idea comunque di dare l'opportunità a tante persone anche che abitano fuori dei centri urbani, ma insomma anche in questo momento, perché voglio dire, fino all'altro ieri c'era ancora il coprifuoco, quindi già anche gli spettacoli erano dimezzati, adesso improvvisamente è prolungato il coprifuoco, quindi forse riprendono, alcuni lo voleva il Caravaggio, no, però chiudiamo perché tanto in estate chiudiamo, insomma è un vero casino, ecco, però andate su CineKit e vedete il streaming insomma. Il film Io, Lui, Lei e l'Asino di Caroline Vignal al cinema da giovedì 10 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuela Piovano di Kitchen Film che lo distribuisce. Un in bocca al lupo e a presto! Viva il lupo e grazie mille Federico e complimenti sempre per il tuo lavoro. Con Silvia Giulietti, regista del documentario Felinopolis, al cinema da giovedì 10 giugno 2021. Ben trovata. Grazie, grazie. Eccoci qua. Che racconto è questo? Questo è un racconto nel mondo di Fellini. Di Fellini si era detto tutto. Abbiamo visto tutto, sappiamo tutto di Fellini, quindi questo film documentario doveva dire qualcosa di diverso e ho avuto un'opportunità di prendere l'archivio di Ferruccio Castronuovo, che era un regista che lavorava con Fellini e non solo con Fellini e faceva i famosi special. Al tempo non si chiamavano backstage, ma si chiamavano special, che erano dei film paralleli che servivano a promuovere il film prima dell'uscita nelle sale. E quindi Ferruccio Castronuovo ha iniziato con Fellini sul Casanova addirittura. Poi ha fatto La città delle donne, La nave va, Ginger e Fred, insomma. E lui faceva questi film con Nanni Loi, Sergio Leone, insomma era specializzato su questo. Ora questo materiale di Ferruccio Castronuovo è stato gelosamente conservato in Cineteca e quindi insomma abbiamo pensato di utilizzarlo e sfruttare l'occasione del centenario di Fellini per potergli ridare una vita. Ora, questo è un progetto che nasce tanti anni fa, già nel 2007 con Ferruccio cercammo di fare qualcosa, però non ci riuscì a livello produttivo, perché comunque insomma richiede uno sforzo economico di un certo tipo. E quest'anno invece ho detto è adesso, prossimo centenario, non ci saremo più. Quindi abbiamo scansionato questo materiale preziosissimo in 4K. E poi io ho mandato questo materiale in visione a Martin Scorsese, perché pensavo che comunque l'unico che veramente poteva fare un capolavoro su Fellini era lui. Io non mi sentivo molto pronta, dico la verità, perché io appartengo a un'altra famiglia, sai che il cinema è fatto di famiglia, no? Siccome io sono un operatore, un direttore della fotografia, io ho lavorato 25 anni con gli operatori di Luchino Visconti, quindi io sono una viscontiana di famiglia, quindi le famiglie non si incontrano mai, cioè è difficile che si incontrino tra di loro, quindi parlare di Fellini mi sembrava un po' lesa maestà. Io ho già fatto un documentario su Visconti, un altro su Montalbe, che comunque erano tutti registi con i quali insomma bene o male avevo familiarità, ci avevo lavorato. Fellini era proprio per me intoccabile, quindi ho mandato tutto a Scorsese. Però questa risposta non arrivava, e tanto questo centenario si avvicinava, quindi ho iniziato a fare queste interviste ai suoi collaboratori pensando a un piano B, perché insomma il 3 marzo ho fatto l'ultima intervista a Dante Ferretti e il 6 marzo siamo entrati in lockdown, e quindi il piano B è diventato piano A. Martin Scorsese non mi ha mai risposto, ovviamente, e quindi sono andata avanti da sola, e devo dire che mi è venuto abbastanza naturale con quel materiale meraviglioso di Ferruccio insieme alle testimonianze, che sono proprio quello che dicono si vede, quindi una cosa più perfetta non poteva essere, e quindi l'ho realizzato. Quanti sono stati interlocutori e interlocutrici? Lina Bert Müller, che è stata non a caso, uno dei miei primi film che feci fu con lei, quindi diciamo una mia maestra è stata anche lei. Lina Bert Müller, che è stata l'aiuto regista di Fellini, e tra parentesi nel mio film c'è anche uno special su 8 e mezzo, dove lei era aiuto regista e fece anche una parte come attrice, e questo special fa parte sempre dell'archivio di Ferruccio, quindi ho acquisito anche quello. Quindi c'è Lina Bert Müller, Dante Ferretti, lo scenografo, Nicola Piovani, musicista e compositore, Maurizio Millenotti, il suo costumista, Norma Giacchero, che è stata la sua segretaria edizione storica, che ha fatto tutti i film con Fellini, e ovviamente Ferruccio Castronuovo, che racconta quello che vedeva, quello che viveva, quello che succedeva. Che quadro è venuto fuori? A me piace molto, perché è venuto fuori un quadro di un Fellini uomo, non il regista, super regista, super vivo. Sì, anche quello, però esce fuori un'analisi di rapporti umani che aveva con i suoi collaboratori. Ovviamente attraverso questo se ne esplora anche il metodo, perché si vede come costruiva il mare, come costruiva il treno, cioè cosa ricostruiva tutto, quindi la costruzione, ma soprattutto si parla del rapporto umano che lui aveva con i suoi collaboratori, e questo rapporto ha fatto sì che questi grandi del cinema italiano, premi Oscar, abbiano formata una forte personalità a inizio della loro carriera, tutto sommato, con un mostro sacro di quella portata. Quindi questo rapporto ha segnato le loro vite. E quindi esce fuori un quadro umano, soprattutto di rapporti tra, chiamiamolo, maestro e discepolo, se vogliamo dire. Che circuitazione sarà? Questi giorni sto uscendo nelle sale Roma, Firenze, Bologna, Torino, Padova, Palermo, c'è una bellissima distribuzione a cura di Officine Ubu, che sta facendo veramente un gran lavoro, soprattutto in questo periodo, e devo dire che la risposta è grossa, perché adesso sono in promozione nelle città, sto presentando laddove posso nelle città, comunque c'è un gran parlare di questo film. Ci sono pagine Facebook, siti internet disponibili per ulteriori informazioni? Sì, c'è qualcosa sul mio sito www.iframe.it, ma diciamo tutte le notizie con trailer, foto, sinossi e quant'altro è sul sito Officine Ubu, nella pagina, nel mini sito Fellinopolis. Lì si può trovare tutto quanto. Il documentario Fellinopolis al cinema da giovedì 10 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Silvia Giulietti. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, grazie a voi, grazie. Con Alessandro Preziosi, regista del documentario La legge del terremoto. Alessandro, ben trovato. Ben trovato a te, Federico. Che storia racconti? Ma la storia del mio documentario è una storia di riscrittura che sembrerebbe banalmente coincidere col significato semantico del documentario. C'è una riscrittura di determinati episodi che hanno segnato drasticamente gli ultimi 50 anni del nostro paese e che attraverso il documentario, quindi attraverso la riscrittura quanto più vicina alla realtà che di solito il documentario fa, cerca di entrare emotivamente nella storia del mio paese attraverso i 5, i 6 più importanti terremoti, che dal terremoto del Belice al terremoto di Amatrice hanno segnato, hanno cadenzato la natura impermanente della nostra esistenza e soprattutto anche la difficoltà e a volte l'incapacità di risalire la china del terremoto. Questo fa questo documentario. Dicevo di riscrittura continua perché c'è una parte di fiction, cioè di rimodellamento della realtà, di ricollocazione della realtà, soprattutto cronologica, che c'è nel documentario, che lo rende un po' più diverso dal genere documentario tout court, ma bisognerà vederlo. Com'era nata l'idea? Nel Belice con il presidente Mattarella in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dal terremoto del Belice del 1968. In quella circostanza si parlò di cinema civile, si è detta così, sembrava quasi uno dei tanti pourparlers con i quali ci si può intrattenere col massimo rappresentante del nostro paese. E invece ha attivato un interessamento allo sviluppo di questa tipologia di cinema che però avesse una componente più moderna, un punto di vista diverso, e da lì la sfida è stata riuscire a raccontare in 1:20 un tema come quello del terremoto attraverso le vie ordinarie, quindi materiale d'archivio, interviste, ma anche riuscire a declinare il concetto del terremoto in più modi fino ad arrivare alla metafora del terremoto emotivo che sconvolge imprevedibilmente la nostra vita. Riattraversare i più importanti, drammatici sismi del nostro paese, che impressioni ti ha lasciato? Tutto questo è stato possibile attraverso le immagini di RaiTech e dell'Istituto Luce. Prima del Covid avevo già visionato molta buona parte del materiale che avrei utilizzato, quando poi durante il Covid l'ho rivista, l'ho rivissuta in maniera completamente diversa. Quindi posso dire con una certa sensibilità testata che quello che mi ha lasciato entrare nella vita sismica del mio paese è stato rintracciare innanzitutto un grande spirito di solidarietà, sempre, dove le mani che scavano sono le mani di tutti, e quindi come l'evoluzione e la sopravvivenza della nostra specie sia dettata da sempre dal fatto che la gente è abituata ad aiutarsi e incoraggiarsi gli uni con gli altri. E l'altra idea che mi sono fatta è che quando lo Stato non è in grado di affrontare determinate situazioni, la gente deve tirar fuori delle forze che crede di non avere e che invece rappresentano un grande esempio. Neanche a farlo apposta mi ritrovo adesso in una terra del Friuli che è stato un esempio un po' per tutta l'Italia. C'è il borgo di Gemona piuttosto che tutto il Vajon, tutte quelle che sono state la ripartenza attraverso Zamberletti, la protezione civile, la ricostruzione, dov'era, com'era, un impiego giusto delle finanze, un tener fuori la politica o comunque filtrata dalla volontà della gente. Ecco, insomma, questo mi ha lasciato e soprattutto mi ha fatto sentire molto più italiano di quanto io non superficialmente avessi cercato maldestramente di esserlo. Che risposte ha avuto dal pubblico? Dal Festival del Cinema di Roma, dove abbiamo avuto 5 minuti di applausi, non 5 minuti veri, però, tant'è che superata la commozione, superato il pianto, la gioia, poi c'è tutto, ho detto, vabbè ragazzi, così sembra che però mi state prendendo in giro, perché è stato molto esaltante il confronto con il pubblico. Al momento in autunno dovrebbe andare nelle sale. documentario La legge del terremoto. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Preziosi. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Federico, in bocca al lupo a te. Con Cristina Zanetti, una delle curatrici della 16ª edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Roma, a Largo Venue e Nuovo Cinemaquila, dal 17 al 20 giugno 2021. Cristina, ben trovata. Grazie mille Federico. Giovedì 17 siamo a Largo Venue con un concerto di apertura di autofinanziamento che abbiamo intitolato Artiste per Immaginaria. L'abbiamo fatto lo scorso anno, lo facciamo anche quest'anno. Ci sono delle artiste che si esibiranno sul palco che sono veramente di fama nazionale, non le anticipo. Ve ne dico solo una, giusto così, Machella, chissà che a quali spettatori e spettatrici non dica qualcosa, che si esibiranno gratuitamente proprio a sostegno del festival. Serata curata da Paola D, da Francesca Micheli Picardi e da The Sunday, e quindi diciamo che siamo la stessa squadra, ma anche squadre diciamo parallele. E poi dal 18 al 20 siamo certamente in mezzo ai film all'Aquila. Quante opere presentate? Quest'anno ne abbiamo 30 con alcuni pezzi davvero importanti. Faccio un salto indietro, tanto per cambiare. Le cose importanti sono diverse quest'anno davvero. Allora mi viene subito da citare per esempio la testimonial di quest'anno, Monica Cirinnà, che è una figura, no, assai conosciuta, no, per La legge che vede la sua firma. Avremo anche la senatrice Alessandra Maiorino, cofirmataria del disegno di legge Zan, anche questo molto attuale, no, nel dibattito politico, l'assessora Maria Teresa Brunetti, che è colei che fondamentalmente sostiene il festival da 3 anni a questa parte, quinto municipio, e avremo anche Susanna Camusso, importantissima presenza perché parleremo un attimo con lei anche della situazione delle donne nel cinema, delle donne che lavorano nell'industria cinematografica. Vabbè, detto questo l'ho fatta, poi l'ho presa larga. Facciamo una panoramica, magari quali sono le tematiche o gli aspetti più battuti? Posso dire che in apertura abbiamo un'anteprima italiana che è un film brasiliano, il titolo è Os Nossos Filhos, è di Maria de Medeiros e coniuga diversi temi, la ricerca della maternità di una coppia di donne che si intreccia in realtà con la storia di una madre che invece lavora in un centro per bambini orfani, alcuni dei quali sieropositivi. Viene poi introdotto il tema della dittatura, no, che purtroppo ha dilaniato il Brasile e attualmente diciamo la situazione tra l'altro non è delle più rose neppure adesso, no? Quindi è un film importante che intreccia questi che sono temi, soprattutto quello della maternità, no? Anche quell'inseminazione è un tema molto dibattuto anche all'interno della comunità LGBTQ e anche all'interno del mondo femminista. Mi sentirei di anche sottolineare l'altro importantissimo, quindi quella era una fiction, anche questa che vi sto per annunciare, Sœur d'Armes di Caroline Fourest, oppure il titolo inglese Red Snake. Qui andiamo dall'altra parte della terra perché andiamo in Kurdistan, dove brigate internazionali di donne combattono contro il Daesh, contro l'ISIS, e sono particolarmente temute dagli jihadisti perché loro credono che essere uccisi da una donna poi impedirà loro di accedere al paradiso popolato di vergini. Ma a parte questa deriva che insomma ci può interessare, la cosa importantissima è la ricostruzione storica di quello che sta succedendo da quelle parti, e il film è ispirato alla storia di Nadia Murad, Nobel per la pace 2018, insomma anch'essa impegnata insomma nei combattimenti, no? Quindi diciamo non è certamente un film per la guerra, non lo è affatto, però in situazioni disperate ecco che anche le donne imbracciano il fucile e difendono la libertà, difendono le loro cause. Volevo chiederti se è previsto l'incontro con le autrici, con alcune autrici. Sì, sì, in questo caso, appunto per l'appunto nel caso di Sogdarma, avremo la regista e giornalista Caroline Fourest in persona e avremo anche una delle protagoniste, l'attrice italiana Maya Sansa. Poi abbiamo, non so, abbiamo 17 cortometraggi e abbiamo super importanti documentari. Ebbene, ne cito uno tra i tanti, Queer in the Script di Gabrielle Zilka, un film canadese, è molto attinente al lavoro che facciamo noi con questo festival, nel quale appunto portiamo sullo schermo le storie delle donne e le storie scritte da sceneggiatrici, e qui si innesta il tema invece di Queer in the Script. Di che cosa stiamo parlando? Delle sceneggiature, no? Anche nelle serie televisive, al cinema, ma adesso in questo caso stiamo parlando delle serie televisive statunitensi, per esempio, no? Abbiamo assistito alle morti accidentali oppure per malattie di tutte le eroine, più o meno supposte lesbiche, letture più o meno infratestuali, e praticamente il mondo delle fan donne si sta ribellando a questo stato di cose, tant'è che fanno addirittura una convention dove si riuniscono e indossano i costumi delle loro eroine, ma soprattutto rivendicano un impatto credibile sullo schermo di questi personaggi, e il loro motto è diventato "We deserve better", cioè noi pretendiamo di meglio, abbiamo diritto a vedere delle storie e vedere rappresentate le donne lesbiche in un modo veritiero, non in un modo caricaturale, e basta con questo genocidio costante dovuto per lo più, diciamo, alla scrittura dei sceneggiatori maschi. Insomma, comunque la cosa sta cambiando e stanno avendo veramente un grosso impatto anche sulle produzioni. Beh, insomma, è incredibile, ma queste serie, io adesso sono un po' vecchiotta, ma le serie televisive in realtà sono state di grande aiuto per le generazioni delle giovani donne lesbiche, delle ragazze, perché hanno comunque fornito dei modelli, e quindi ci sono degli studi anche molto importanti su questo, tant'è che dopo questo film, questo documentario, ci sarà appunto un incontro, un dibattito tenuto dalla mia collega Elena Rossi Linguanti e da Federica Fabiani, e sono entrambe studiose di serie televisive, di comunicazione, proprio per approfondire un pochino questo tema, l'importanza, insomma, di tutte le narrazioni anche alla TV. Ci lasci tutti i riferimenti internet per i dettagli? Possiamo andare sul sito, che è www.immaginariaff.it. Le prenotazioni e le tessere sono in scadenza domani, però presentandosi al cinema possiamo vedere quello che potremo fare. Come sappiamo, le sale sono contingentate, quindi c'è il numero chiuso. Invece per quanto riguarda il concerto del Largo, bisogna prenotarsi direttamente al numero del Largo Venue, che è in internet. È stata dura anche quest'anno, è inutile che lo dica, perché stop and go, si apre e si richiude, si apre e si richiude. Insomma, adesso ci proviamo e siamo fiduciose. 16ª edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, a Largo Venue e Nuovo Cinema Aquila a Roma dal 17 al 20 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Zanetti. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille Federico, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie. Con Giulia Giorgi, direttrice della prima edizione dell'HipHopCinefest.org dal 7 al 20 giugno 2021. Ben trovata. Ciao, grazie per l'invito. Questa invenzione ce la racconti? Io ho girato due film di genere, insomma, hip hop, sono due documentari, uno nel 2014 e uno nel 2011, e da lì mi è capitato di girare vari festival tematici. E quindi allora mi sono detto, ma perché non organizzarne uno anche a Roma? E poi è successa la pandemia, quindi mentre lo scorso anno sarebbe dovuto essere, insomma, il nostro primo anno fisico, avendo ricevuto moltissime partecipazioni internazionali, abbiamo deciso di farlo comunque quest'anno, anche se non in versione fisica ma digitale, quindi con oltre 95 film in concorso, tra documentari, progetti di finzione, sperimentali, videoclip lunghi, corti, insomma la programmazione è molto vasta, le tematiche trattate sono di vario genere, quindi l'hip hop è il filo comune di tutta quanta la programmazione. E poi non c'è solo questo, perché abbiamo da lunedì 7 fino al 20, attraverso il nostro sito ipopcinefest.org, sarà possibile vedere lo streaming gratuitamente, e già ci si può prenotare per i biglietti, ed è meglio farlo in anticipo, di tutti quanti i film in concorso. E ci sarà sempre dal nostro sito l'accesso ad una mostra d'arte digitale, sempre in chiave hip hop, sempre sarà per le 2 settimane. E poi dalla settimana invece del 14, per mantenere un po' l'atmosfera party, abbiamo lavorato con Radio 4 Music, che ci passerà in streaming tutti dei DJ set di artisti hip hop internazionali, che si chiuderanno con le 2 giornate sul nostro canale YouTube, sempre di Pop Cinefest, in cui avremo 2 dirette da 6 ore con conferenze tematiche tipo storia del cinema hip hop, ma anche distribuzione indipendente di progetti cinematografici, come fare il pitch di un proprio progetto, imprenditoria hip hop, hip hop e arte educazione, fotografia hip hop intesa come occhio fotografico cinematografico. Quindi insomma abbiamo voluto dare spazio, insieme anche al Cartello degli Indipendenti, che è una realtà cinematografica con cui organizziamo degli eventi di condivisione culturale gratuita, anche a delle possibilità di formazione. E ovviamente le 2 giornate, quella del 19 e del 20, si concluderanno con le premiazioni dei progetti in concorso. Quante sono le opere proposte? Sono ben 95 da circa 20 paesi differenti. Il festival sarà in inglese perché abbiamo una grande partecipazione internazionale, quindi abbiamo deciso di sottotitolare tutto quanto in inglese, non essendo fisici su Roma, ma internazionali, ecco. Qual è il rapporto tra l'hip hop e la settima arte? Chiaramente la settima arte è una delle migliori maniere per poter narrare questo universo, e diciamone è stata anche una delle fonti di principale diffusione, perché se andiamo a pensare al filone dei primi film hip hop degli anni 80, tipo Beat Street, Wild Style, Breaking 1 e 2, che sono insomma nei primi 5 anni degli anni 80, sono quelli che poi dagli Stati Uniti hanno portato ed esportato effettivamente l'hip hop con le sue 4 discipline in tutto il mondo. Proprio nella nostra conferenza dedicata alla storia del cinema hip hop avremo degli interventi di esperti di cinema hip hop di diverse parti del mondo, che ci spiegheranno come nell'ex Unione Sovietica, piuttosto che in Nord Africa, piuttosto che in Europa, piuttosto che negli Stati Uniti, questi film hanno avuto delle influenze sulle realtà giovanili e come in maniera differente hanno poi portato alla crescita delle varie scene hip hop. Come saranno organizzate le giornate online? Per quanto riguarda lo streaming, dal 7 è 24 ore su 24. Quello che consigliamo è di prenotare il biglietto in anticipo, perché grazie alla piattaforma che ci ha supportato, che si chiama Cinento, che è una piattaforma dedicata proprio ai festival di streaming, ci vogliono comunque un paio di ore prima dell'approvazione definitiva del biglietto, quindi è sempre meglio farlo in anticipo. Quindi quello a qualsiasi ora del giorno e della notte è assolutamente fruibile, e soprattutto il pubblico può e deve votare, perché ogni categoria avrà il miglior progetto anche votato dal pubblico, e questo si fa con un semplice cuoricino sotto ad ogni film da lunedì in poi. E la mostra d'arte anche è totalmente fruibile 24 ore su 24, mentre per quanto riguarda i DJ set saranno in onda dopo le 9 di sera e sono per 2 ore al giorno. Mentre le conferenze, il programma si può trovare sul sito, ma avendo questa partecipazione particolarmente dislocata con ospiti che vanno da Taiwan fino a Los Angeles, inizierà dalle 2 di pomeriggio e si concluderà circa alle 10:30 di sera. I riferimenti web ce li hai dati, prima edizione dell'hiphopcinefest.org dal 7 al 20 giugno 2021, saluto e ringraziamento alla direttrice Giulia Giorgi. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, a prestissimo, ciao a tutti. Con Mario Sesti per presentare l'ottava edizione di Cinema al Maxi dal 25 maggio al 21 luglio 2021. Mario, ben trovato. Grazie Federico, eccoci di nuovo finalmente. Con la riapertura quindi cambiano un po' le condizioni, raccontiamo questa ottava edizione.